Va pa ha ure ure gore mode hiroko hiroko mo kenke ara bani le goria bani a baña yuide wo lu.